Radio 24 Reportage. Berlino, una capitale che cresce dal basso, di Laura Bettini. La Lehrterstrasse di Berlino è una strada come un'altra, tipicamente tedesca, con un po' di verde, un bel marciapiede ed edifici né troppo vecchi né troppo alti. Non dista molto dal Reichstag e ancor meno dalla stazione centrale, edifici indimenticabili della Berlino riunificata. Ma nella Lehrterstrasse non ci sono gli specchi o gli scintillii della modernità. Anzi, da un certo punto in avanti si cammina ai piedi di un lungo casermone, inteso proprio come edificio militare a mattoni rosso scuro. È lì dentro che si è installato lo studio Sauerbruch Atton, in una ex fabbrica di uniformi per l'esercito prussiano. È una storia tedesca ed europea insieme, quella di Matthias Sauerbruch, che conosceremo con l'aiuto di Stefania Manna, ingegnere italiano che per lungo tempo ha vissuto a Berlino prima di tornare in Italia e fondare lo studio Jan Pyu di Roma con altri due architetti. I was born in southern Germany, so I'm not a Berliner, but I studied in Berlin and before. Il professore dice che è originario del sud della Germania, ha studiato a Berlino, ma poi è andato a Londra per un anno di pratica e alla fine è rimasto lì 12 anni. In 1993 we came back to Berlin for two reasons. Nel 1993 sono tornati a Berlino perché hanno vinto il concorso della GSV, ma anche perché in quel momento Berlino era il posto più energetico, pieno di energie e quindi sembrava opportuno cogliere la chance. And of course, since the change of the century, since 2000 approximately, ovviamente circa dal 2000 questa situazione è un po' cambiata. Ci sono oggi in Germania città come Monaco, Francoforte che hanno un po' preso l'eredità di questa di Berlino. Però quello che è rimasto a Berlino è questo spirito di apertura, di possibilità di innovazione che rimane ancora. A certain mental openness. La sede dello studio Sauerbruch non è un dettaglio in questa storia. Racconta Matthias Sauerbruch che quando si trasferirono lì, dopo la caduta del muro e negli anni della riunificazione, quindi, quell'edificio era quasi abbandonato e non fu affatto costoso entrarvi e ristrutturarlo a uso e consumo di uno studio di architettura. One of the qualities of Berlin. Questa è una delle caratteristiche di Berlino, ancora oggi ha molto spazio, molte potenzialità e molta energia creativa. The hardest part is over, let it in. Ecco, lo stesso hanno fatto in quegli stessi anni, ma ancora oggi, molti artisti, designer, architetti. Di spazio ce n'è anche oggi e figuriamoci allora. Ma una sola città non può dare lavoro a tutti questi professionisti, dice scherzando Sauerbruch. Per questo, se volete incontrarli, dovete andare all'aeroporto alla mattina presto. Sorride, ma sa cosa dice Sauerbruch, che dopo diversi lavori a Berlino e in Germania, ha lanciato il suo studio oltre confine, anche in Italia. A Milano è firmato Sauerbruch Atton parte del Maciachini Center. A Venezia lo sarà il museo e polo culturale di Mestre. Stefania Manna, come dicevamo, visse la Berlino degli anni della riunificazione e ricostruzione. Questa situazione di una enorme concentrazione di creativi, che sono per la maggior parte chiaramente giovani, ma che sono una popolazione multinazionale, multietnica, multidisciplinare, ha creato un substrato particolarissimo per la città, dal quale non viene un immediato benessere, una diretta causa-effetto, come nell'economia classica, per cui se una città richiama degli investimenti, automaticamente questi investimenti innescano una spirale positiva e quindi la città aumenta la sua ricchezza. A Berlino questa classe creativa e queste dinamiche ha cominciato a creare una spirale virtuosa, contaminando vari settori. Uno di questi, per esempio, è l'architettura. non è all'architettura dei grandi e impressionanti edifici che allude Stefania Manna. Quella a Berlino l'hanno già fatta, e onestamente anche troppo, Foster, Calatrava, Piano, Isozaki, Moneo e tutti gli altri grandi studi che si sono spartiti Potsdamer Platz e gli altri luoghi storici della città. Qui siamo su un piano più umano, del cittadino, il piano dei Baugruppen. È in questi gruppi di costruzione che Stefania Manna vede l'ultima incarnazione dello spirito collaborativo e libero delle migliaia di creativi arrivati a Berlino per la riunificazione. I Baugruppen vogliono far crescere la città, ma secondo i loro desideri e bisogni, non secondo quelli di altri. Questi gruppi di costruzione si configurano proprio come delle realtà in cui dei cittadini si mettono insieme, si mettono a sistema con un architetto e costruiscono la propria casa, chiaramente affidandosi ad un developer, ma risparmiando circa il 25-30%, perché non devono pagare real estate, non devono pagare marketing e non devono pagare utile d'impresa. Questo è un fenomeno diffuso a Berlino. Oggi parliamo già di 30 di queste iniziative già costruite, 30 in cantiere e 20 in pianificazione. Quindi è una realtà piuttosto importante. I termini economici anche sono molto attrattivi. In questo Berlino è unico perché in pratica a Berlino si trovano ancora molti lotti liberi, come è facile immaginare, e anche in zone centrali della città. Questo dovuto tanto a quello che la storia ci ha mostrato, e quanto poi anche alla ricostruzione critica della città, che in realtà è stata preceduta da una distruzione critica, cioè Berlino è stata demolita due volte. Quindi ha tanti vuoti urbani disponibili per questo tipo di politica. È una politica che vede i prezzi dei terreni aggirarsi intorno ai 1000 euro al metro quadro come incidenza sul valore dell'immobile. Un paragone con Roma è almeno 4 volte tanto, quindi questo si riflette su un prezzo finale di una casa nuova, cioè di nuova costruzione, oltretutto costruita secondo i propri specifici desideri e secondo i propri specifici gusti, che a Berlino, cioè che con questi tipi di iniziativa si aggira intorno ai 2.500 euro a metro quadro. Nelle grandi città italiane questo è assolutamente impensabile. Assolutamente impensabile. Nonostante questi prezzi, in passato ancora più bassi, in Germania non c'è mai stata la stessa ambizione della casa di proprietà che abbiamo noi. D'abitudine, molti tedeschi preferiscono l'affitto. Solo il 43% è proprietario della propria abitazione. In Italia siamo all'80%. In Spagna e Svezia la percentuale è ancora più alta. Ma ora, con la crisi dilagante, ebbene sì, anche i tedeschi si preoccupano, tanti cominciano a pensare che investire nel mattone potrebbe venire utile un giorno. Ma i mutui sono troppo cari per molti berlinesi e così le fila dei Baugruppen hanno cominciato ad ingrossarsi. Ma cosa sognano e progettano i berlinesi per le loro residenze del futuro? Tutto praticamente. Alcuni Baugruppen, alcuni gruppi di costruzione, si sono costruite una scuola interna per i bambini perché nel quartiere dove stavano non ce n'erano a sufficienza, e arrivano a questo livello anche di innovazione del modello sociale di assistenza. Cioè questi sono cittadini attivi. E poi produce anche un'individualità dell'architettura che è fatta proprio non... Cioè non viene costruito, non si costruisce per delle entità anomale, si costruisce per chi vivrà dentro il costruito. Mm-hmm. E questo secondo me è a livello proprio di cioè questo è un circolo virtuoso. Sicuramente, anche perché non si costruisce tanto per costruire, ma si costruisce perché c'è qualcuno che ti sta chiedendo di costruire. Esatto. In questo il Senato si sta muovendo, sebbene un pochino a rilento per certi versi. Gli architetti in questo sono diventati molto attivi, alcuni architetti che hanno sostenuto e progettato questi Baugruppen sono essi stessi stessi loro clienti, cioè hanno magari ricavato il proprio studio all'interno del nuovo edificio, e quindi sono anche strategie di sopravvivenza professionale in momenti in cui la crisi richiede anche nuove prospettive. Dall'alto della sua esperienza di città più distrutta e ricostruita del XX secolo, Berlino propone quindi la sua ultima ricetta di edilizia, partecipazione e vita in comune. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.